Storiacce di Raffaella Calandra. Prossima fermata, next stop, San Babila. No, non mi hai cambiato, non ho paura. Vedo, sì, c'è più poliziotto in giro. Ti senti tranquilla lo stesso? Sì, sì. Non ci ha mai pensato tipo a evitare di prendere la metropolitana? No, fino adesso no. Le abitudini io non le ho cambiate perché la metropolitana a Milano è diventata una necessità. Non se ne può fare a meno, ogni tanto viene, quando si vedono delle facce strane viene da pensare, però è una cosa che non possiamo eliminare. Hai notato più poliziotti? Sì, sì, questo sì. Una divisa fa sempre sentire più sicuro. Viaggio molto coi mezzi. Ci pensa un po' in più quando prende la metro? Non ci penso, però so che potrebbe accadere. Fiduciosa nella mia vita forse. I mezzi di trasporto, a partire dalle fermate più affollate della metropolitana, come questa di Milano, i luoghi di culto, a cominciare dalle sinagoghe, le redazioni dei media, un po' tutti. L'elenco dei possibili obiettivi sensibili italiani è lungo e diversificato perché ormai, come ripetono fonti di intelligence, nessun paese può considerarsi davvero al riparo da azioni terroristiche. E i fatti di Parigi e i profili degli attentatori confermano che anche piccoli gruppi, più o meno addestrati, possono essere in grado di compiere stragi terribili e di tenere col fiato sospeso il mondo intero. Così ora anche da noi, dalle strade più blindate, si leva una richiesta di protezione verso forze dell'ordine e magistratura, e da qui, da un punto sensibile come la fermata Duomo della metro di Milano, parte questa puntata di Storiacce tra sicurezza e giustizia. Sono italiani, gli altri stranieri residenti in Italia o comunque passati di qui. Sono i 53 aspiranti jihadisti nostrani, la pattuglia di potenziali terroristi partiti e in molti casi pure morti nelle trincee della Siria, ma che potrebbero rappresentare un pericolo una volta rientrati in patria. Per alcuni già sappiamo che è successo e questo di sicuro rappresenta un pericolo da noi come nel resto di Europa, dove si calcola siano tra 3.000 e 5.000 i cosiddetti foreign fighters, cifre che preoccupano l'intelligence. Ma a voi tutto questo ha fatto cambiare abitudini, ad esempio negli spostamenti, o vi fa sentire più insicuri in città? Se volete scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raff Calandra. Di sicuro quello che possiamo dire è che lo shock degli attacchi francesi ha portato ad accelerare sulla realizzazione di un vecchio progetto come la creazione di una procura nazionale antiterrorismo. Sembra qualcosa solo di burocratico, ma in realtà una maggiore circolazione delle notizie investigative può salvare delle vite, e noi di fatto già lo facciamo in autonomia, ricorda uno dei magistrati che ha vissuto direttamente la stagione del terrorismo brigatista, come Armando Spataro, procuratore capo di Torino. Improvvisamente sembrano attutite o scomparse resistenze politiche. La storia del coordinamento nelle indagini antimafia è nota, ha portato alla creazione della Direzione Nazionale Antimafia. Pochi sanno però che quel coordinamento nasce perché i giudici che si occupavano di mafia negli anni 80 parteciparono alle ultime riunioni dei magistrati che si occupavano di terrorismo, parlo degli anni di piombo, per vedere quel metodo di lavoro spontaneamente da noi creato. Incontri periodici, scambio di notizie, di verbali, all'epoca non c'erano i computer, ci portavamo appresso le fotocopie, incontri con la polizia giudiziaria per coordinare le indagini. Finiti gli anni di piombo e quindi venuto poi alla ribalta del terrorismo internazionale, noi abbiamo ripreso quegli incontri ancora una volta spontaneamente. Quindi in sostanza questo progetto sembra portare ad una realizzazione formale di quanto invece voi magistrati di fatto in qualche modo cercate già di fare nella pratica, proprio perché questo coordinamento è fondamentale. Ma perché in questo tipo di inchieste il coordinamento tra i magistrati di procure diverse è così essenziale? Abbiamo a che fare con organizzazioni che operano per definizione su più territori. È del tutto evidente che io posso entrare in possesso a Torino di una notizia che riguarda l'organizzazione che opera anche a Roma. Se questo è affidato alla mia iniziativa va pure bene, ma non tutti possono avere la stessa sensibilità, la capacità di comprendere che è necessario farlo subito, lo scambio di informazioni. Poi dobbiamo elaborare una strategia, perché se per ipotesi io intercetto e arresto una persona che è sotto indagine anche in altra sede, danneggio quelle indagini. Se poi passiamo alla proiezione di queste esigenze a livello internazionale è ancora più importante. Proprio la Francia, devo dirlo, unitamente all'Inghilterra, sono stati anche i paesi che non hanno collaborato con rapidità e spontaneamente, talvolta non hanno collaborato proprio. Bisogna anche portare questa cultura della investigazione, di cui l'Italia, posso dire, è non solo testimone ma da sempre protagonista, forse perché all'avanguardia. Forse perché abbiamo conosciuto queste forme di criminalità prima degli altri, quindi così come nei paesi dove si sviluppano le malattie si sviluppano anche gli anticorpi, forse questa è la ragione. Maggiore circolazione delle notizie rende l'Italia anche più sicura dal rischio terrorismo? Certo, assolutamente sì, pur se è ovvio che nessuno può essere matematicamente certo dell'assenza. Faccio un esempio, rammento che a Milano fu individuato e poi arrestato una persona che aveva in Spagna avuto un ruolo nelle stragi alla stazione Atocha. Certo. E dalle intercettazioni vengono fuori gli elementi che portano a un personaggio, verosimilmente il suo complice, che stava a Parigi. Noi riversiamo immediatamente notizie, dati, eccetera, chiedendo di essere aggiornati su quello che si faceva su questa persona. Non abbiamo mai avuto risposte. Quando abbiamo dovuto operare l'arresto della persona che stava a Milano, abbiamo chiesto ugualmente una contemporaneità di iniziative, non abbiamo avuto risposte. Dall'Inghilterra ci giungono spesso magari delle intercettazioni, ma che non le possiamo utilizzare perché l'Inghilterra non lo consente. Lei capisce che questo crea una diversità di sistema, per non parlare poi dell'utilizzo dei servizi di informazione, che talvolta è un utilizzo che non corrisponde alle regole processuali vigenti nella gran parte dell'Europa. E possiamo dire che tutto questo in realtà poi sono nodi che vengono fuori drammaticamente quando ci sono delle situazioni di forte allerta, come succede dopo un attentato. Ad Armando Spataro, uno dei magistrati che più è esperto di inchieste in terrorismo, l'ultima domanda che faccio è più generica e gli chiedo: quali sono le principali difficoltà nelle inchieste sul terrorismo, come in questo caso in Italia ci sono a Milano, a Roma, anche a Torino, inchieste che vanno all'interno del mondo del fondamentalismo islamico? Intanto c'è una tendenza ormai a sfruttare la modernità che le organizzazioni terroristiche internazionali sanno mettere ben in campo. Mi riferisco per esempio ai collegamenti, alla propaganda, alle istruzioni via web. Questo comporta la necessità di aggiornare la specializzazione, di avere investigatori capaci di indagare appunto su come il mondo dell'informatica viene utilizzato dai terroristi. In Italia anche questo abbiamo, ma a mio avviso va implementato. Poi abbiamo delle difficoltà di carattere strutturali o forse di mancanza di strutture di queste organizzazioni. Mi spiego, se io appartengo ad un'organizzazione in qualche modo strutturata devo avere rapporti con i miei complici, devo chiamarli, dobbiamo incontrarci. Questo comporta la possibilità di individuare attraverso pedinamenti, intercettazioni, controlli dei tabulati, questi contatti. Ma purtroppo, se è vero quello che ho detto prima, cioè che l'informatica sostituisce questi collegamenti, anche le istruzioni per confezionare ordigni, magari in maniera artigianale, ma si apprendono per quella via, spesso ci troviamo di fronte a personaggi isolati o a gruppi molto esigui numericamente. Questo rende più difficile le indagini e dunque è ovvio. Faccio l'esempio dell'episodio di Milano nel 2009, un aspirante kamikaze cerca di farsi esplodere all'ingresso di una caserma. Certo. E fortunatamente si fa male solo lui e nessuno patirà conseguenze. Io andai nella sua abitazione ed era la realtà di un uomo isolato che faceva tutto per computer e non era collegato a nessuna organizzazione, nessuno mai avrebbe potuto individuarlo. Sono i temuti lupi solitari, i terroristi fai da te, formati su siti estremisti e pronti ad entrare in azione in ogni momento. Ebbene, far circolare notizie, informare su inchieste e intercettazioni può rappresentare un'arma in più anche contro questi gruppi. E ora forse, con l'ultima strage di Parigi, le obiezioni politiche degli ultimi 15 anni stanno venendo meno e anche per il terrorismo si sta arrivando a quella forma di procura centrale che Giovanni Falcone volle per combattere la mafia. Anche in quel caso, però, divenne in realtà solo dopo la stagione delle stragi, ma è fondamentale, conviene anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Sabelli. Il passo in avanti consiste nel realizzare questo coordinamento in sede centrale affidato alla magistratura per quanto riguarda l'attività legata agli interventi della magistratura. Una procura antiterrorismo all'interno della Direzione Nazionale Antimafia tiene dentro anche questi due aspetti, che è un altro elemento da molti messo in luce, cioè di come ci siano anche delle inchieste antimafia che abbiano dei profili anche di antiterrorismo. Questo è stato evidenziato in particolar modo nelle inchieste su quegli anni complessi e duri intorno alla stagione delle stragi del 92-93. Abbiamo avuto questi fenomeni di collegamento, si tratta di fenomeni in evoluzione, quindi l'affidamento di questa funzione di coordinamento nazionale ad un'unica realtà centrale, cioè la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, consentirà anche di meglio valutare e monitorare queste situazioni di possibile collegamento. I dibattiti e gli scontri, anche molto duri, intorno alla giustizia in realtà il più delle volte sembrano vertere su questioni assai distanti dal vivere quotidiano, questioni percepite come astruse. Ora le riforme, ora specifiche leggi, dalla prescrizione alla responsabilità civile delle toghe, da ultimo la questione delle ferie. A che punto sei col caso Shelton? Ho patteggiato. Hanno ucciso una bambina. Un po' di giustizia è meglio di niente. Devi dirlo al padre. Non riesco a capire. Uno dei due, in ogni caso, la farebbe franca. Cosa? La giuria dovrà credere a me. Ho patteggiato, mi dispiace. È così che funziona la giustizia. Che succede ad un uomo che non ha più la fiducia nella giustizia? Può essere capace di tutto e può pensare pure di farsela da sé quella giustizia. E questa purtroppo non è solo fiction. Mille possono essere le ragioni per cui si perde la fiducia nella magistratura, ritrovata in genere invece al massimo grado, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, quando si arriva ad arresti che sventano piani terroristici o quando alle forze di intelligence si chiede protezione o ancora, come è successo in passato, quando la magistratura viene considerata il baluardo contro la corruzione. Ma se poi si gira nei corridoi dei palazzi di giustizia, la sensazione è che da lì i più vogliano invece semplicemente scappare il prima possibile, perché nella migliore delle ipotesi ritengono di essere finiti dentro una macchina lenta, ingolfata e polverosa. Caratteristiche ripetute con l'evidenza dei numeri nelle inaugurazioni dell'anno giudiziario. Si sono fatti però dei passi in avanti, assicura il presidente dell'ANM Rodolfo Sabelli, che torna poi anche sulle polemiche col governo. Si va verso una progressiva riduzione del carico civile dell'arretrato, ma questa riduzione è troppo lenta, perché una giustizia inefficiente si traduce in una giustizia negata, in una giustizia che non rassicura, direi, non soltanto gli investitori stranieri e non fa bene all'economia, ma è una giustizia che non assicura la sua funzione adeguatamente, la sua funzione fondamentale, che è la tutela dei diritti. Arriviamo ad un'altra questione, che è appunto quella dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Si arriva a questo appuntamento dell'anno giudiziario comunque dopo mesi che possiamo definire di come? Di teso dibattito tra l'ANM e l'attuale governo, il governo Renzi, su riforma della giustizia, legge sulla corruzione, aspetti riguardanti anche proprio la vita dei magistrati come quelle delle ferie. Vi è una volontà dichiarata di riforma della giustizia, è una volontà dichiarata che però deve tradursi in fatti, in termini efficienti, e deve essere ben indirizzata, cosa che a nostro parere non sempre è accaduta. Che mesi sono stati? Sono stati mesi di tensione? Direi di confronto teso, confronto critico, ma anche di iniziative, di proposte che vanno nel senso della collaborazione. Voi avete definito abbastanza deboli le proposte del governo contro la corruzione. Aumentare le pene è la soluzione forse più facile, ma non è la più efficace. In materia di corruzione occorre rompere quel patto corruttivo che lega corrotti e corruttori, soprattutto nel momento in cui si aumentano le pene. Allora bisogna prevedere anche degli sconti di pena per coloro che fanno la scelta di collaborare, introdurre la possibilità ad esempio di attività sotto copertura, cioè tutte quelle soluzioni che sono già previste da convenzioni internazionali. Avete pubblicamente e fortemente preso posizione contro la proposta del governo, parlando e chiedendo meno indignazione, meno stupore e più concretezza. In qualche modo vi sembra che la risposta del governo su questo tema sia stata più, diciamo, di tipo mediatico che di tipo effettivo nel contrasto alla corruzione? La volontà di riforma si vede nei fatti. I fatti, che poi sono le proposte di legge, ci sembrano non corrispondere pienamente alle dichiarazioni. Cioè il governo va in contraddizione con se stesso? Beh, in alcuni casi diciamo che le scelte che sono state fatte e vengono fatte non sembrano corrispondere ad alcune dichiarazioni. Ma ad esempio un altro tema diverso, ma che per certi aspetti presenta analoghe caratteristiche di diciamo mediaticità, è quello della prescrizione. Anche qui si è sviluppata in un certo momento una diffusa indignazione in materia di prescrizione, però poi vediamo che le riforme, le proposte che sono state fatte non colgono quelle che invece siano le necessità e i problemi in materia di prescrizione, andrebbe bloccata quantomeno dopo la sentenza di primo grado. Beh, però sono stati fatti dei cambiamenti anche sulla prescrizione e in alcuni casi, anche per quanto riguarda per esempio la corruzione, sono stati allungati i termini. In materia di corruzione l'aumento del termine di prescrizione è soltanto un effetto dell'aumento della pena massima. Tra la magistratura associata, quindi la ANM, e il governo, in questi mesi si è aperto un fossato di tensione quando c'è stato tutto il momento di discussione anche sulla revisione delle ferie dei magistrati e poi quello complessivamente sulla riforma della giustizia. Prima abbiamo parlato di dibattito teso. Guardi, in materia di ferie bisogna stare attenti perché il problema è essenzialmente un problema di carattere organizzativo, perché di fatto i magistrati hanno sempre avuto 30 giorni di ferie, quei 15 giorni aggiuntivi sono i giorni destinati alla elaborazione e al deposito dei provvedimenti incamerati prima delle ferie vere e proprie. Si è voluto fare qualche concessione un po' di antipolitica? Quello che noi abbiamo trovato sbagliato è stata la rappresentazione della magistratura come di una categoria privilegiata che godeva di un numero di ferie maggiore degli altri, cosa peraltro neanche vera, e che da questo numero di giorni di ferie addirittura potrebbe dipendere l'inefficienza della macchina della giustizia, il che assolutamente non è vero. Parlavo all'inizio di un dibattito superficiale, pregiudizi, luoghi comuni, penso anche al tema ad esempio della responsabilità civile, per come questo tema è stato trattato. Come possiamo definirla oggi questa giustizia italiana? Un tempo era stata definita un malato quasi terminale, oggi è un malato che ha dei medici che agiscono come? È un malato che fa di tutto per riprendersi e che vuole aiutare i suoi medici a curarlo con i farmaci giusti. Una puntata dunque, questa di Storiacce, tutta dedicata alla giustizia, rappresentata spesso bendata. Per i greci era Dike e la sua storia racconta molto di come gli antichi intendessero la giustizia e un po' anche di come dovrebbe essere universalmente considerata la giustizia. Allora, come sempre, a questo punto la linea va alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore di greco all'Università di Trento, autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia, a cominciare da Olympos. Mitiche storiacce. Che non è un vero e proprio personaggio mitologico e con le sue storie, le sue vicende, è appunto essenzialmente una personificazione, la rappresentazione di un'idea. Era immaginata come una divinità figlia di Zeus e come una divinità vergine, perché diceva Platone la giustizia deve essere pura e incorrotta. Aveva due sorelle, Eunomia, cioè il buon governo, e Eirene, cioè la pace. Sua figlia si chiamava Esuchia, che in greco significa la tranquillità. Insomma, c'è sotto un'idea di base, l'idea che non può esservi pace, che non può esservi tranquillità, dove non ci sia giustizia. Una giustizia che i greci intendevano soprattutto come equa distribuzione, in cui ciascuno ha quanto gli spetta. Una giustizia come equilibrio. E diche essenzialmente equilibrio. Non a caso si parlava di diche, di giustizia, anche tra gli amanti. C'era una giustizia amorosa quando l'amore veniva ricambiato. Oppure si parlava della giustizia del mare. Il mare giusto era il mare calmo, sereno, in cui tutto era in equilibrio. La più antica descrizione di diche ce la dà il poeta Esiodo, vissuto intorno all'VIII secolo avanti Cristo, e già qui c'è un'invettiva contro i governanti corrotti, mangiatori di doni, dice il testo greco, che offendono la giustizia. Un mito più tardo racconterà che la giustizia si sarebbe in realtà chiamata Astrea, ed era una ninfa che viveva sulla terra nei tempi felici della favolosa età dell'oro. Ma poi, disgustata dalla corruzione degli uomini, Astrea sarebbe fuggita via. E oggi splenderebbe nel cielo, molto lontana da noi, nella costellazione della Vergine. Grazie dunque a Giorgio Geranoi. In chiusura la segnalazione, che ci fa tornare su un tema che abbiamo affrontato in un'altra puntata di Storiacce, quella sui padri separati e la giurisdizione. Abbiamo ricevuto tante email e tanti messaggi alla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter dopo questa puntata, anche se vi avevamo raccontato anche di segnali di cambiamento nelle pronunce della magistratura. In realtà continuano ad essere la maggior parte le storie dei padri, come quella di Fabrizio, che ci ha scritto, che si sentono letteralmente buttati fuori dal contesto familiare, anche se la cosiddetta colpa, scrive Fabrizio, era da addebitare alla moglie. Dopo 22 anni di matrimonio e due figlie adottate, leggo da questa mail, sono stato estromesso dalla vita delle mie figlie e dalla casa di mia proprietà. Tale situazione ha compromesso la mia stabilità economica, nel frattempo ho pure perso il lavoro, prosegue Fabrizio, e se non fosse stato per i miei genitori anziani, scrive ancora, la mia situazione sarebbe ancora peggiore. Se avete anche voi storie da sottoporci, questo spazio, ricordate, è riservato a voi ascoltatori. Scriveteci allora una mail, oppure su Facebook ci trovate alla pagina di Storiacce, o su Twitter ancora l'account è Raf Calandra. Sul sito di Radio 24 invece potete riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce. Ciao a tutti, a presto!